Mio fratello era forte, ribelle, più bello di me. Avevamo una donna in comune e una macchina in tre. Mi faceva conoscere gente che poi malediva. Mi parlava di stati sovrani e di nuove famiglie. Mio fratello rubava le sedie per stare più su. Mi diceva che tanta fortuna sarebbe arrivata. In un piccolo pezzo di terra mio padre pregava. Lo guardava negli occhi e temeva di averlo capito. Salvo l'uomo che bussa alla mia porta. Salvo l'uomo che canta alla finestra. Salvo l'uomo che scrive. Salvo l'uomo che ride. Salvo l'uomo e sarà un giorno di festa. Mai più. Mai più. Mai più. Mai più dolore. Mio fratello un bel giorno è sparito e non ha ringraziato. C'è mia madre che ancora l'aspetta per l'ora di cena. Lui non era cattivo ma aveva un destino scolpito. Non lo cerco perché se lo trovo lo ammazzo da me. Salvo l'uomo che bussa alla mia porta. Salvo l'uomo che canta alla finestra. Salvo l'uomo che scrive. Salvo l'uomo che ride. Salvo l'uomo e sarà un giorno di festa. Mai più, mai più, mai più, mai più mia, pensa a tagliare a tia, lassami campare, non giù mi può giudicare. Tu, Catalia mia, pensa a tagliare a tia, lassami cantare, chi sta solo una canzone. Calatene tutti gli occhi e se vi trovate davanti alle specchie, che tutto che cose fa mociare, giorna come la luce da sole. Tira la pena qua senza peccato, non c'è condanna, non c'è condannato. Hai visto l'uomo, non votato la pecora, so passicuto al lupo. Salvo l'uomo che bussa alla mia porta. Salvo l'uomo che canta alla finestra. Salvo l'uomo che scrive. Salvo l'uomo che ride, salvo l'uomo e sarà un giorno di festa. Mai più, mai più, mai più, mai più dolore. Mai più.